Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, bentrovati, sono le 16.07, Luca Tremolada al microfono, Luca Dello Jacopo, buongiorno. Buongiorno. Insomma Luca, siamo stati un po' accusati di essere un po' snob, un po' fighetti, non ci occupiamo di Facebook, non ci occupiamo dei grandi social network. E invece questa volta decidiamo di... scendere dal cadreghino, come si dice, anche perché insomma Facebook ormai è assolutamente un social network sdoganato, tanto che c'è un disegno di legge, insomma è pronto un disegno di legge per istituire addirittura il reato di istigazione e apologia dei delitti contro la vita e l'incolumità delle persone anche tramite internet e social network. La proposta del senatore della PDL Raffaele Lauro arriva chiaramente dopo la gravissima aggressione al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ci occupiamo di Facebook anche per questo, per cui in questo momento, se non sbaglio, sta succedendo anche qualcosa, no? Sì, da Maroni, dal ministro dell'Interno Roberto Maroni, sono stati convocati alcuni esperti del mondo di internet per capire meglio qual è il panorama del web in questo momento e quali poi possono essere le possibili strade di intervento. Poi ricordiamoci le dichiarazioni, insomma Facebook è stata subito colpita fin dall'inizio, cioè ogni volta che succede anche un gioco giornalistico, per cui ogni volta che capita un fatto di cronaca nera o di politica, ecco che si va a cercare su Facebook se nasce un gruppo pro o contro, se ci sono delle tracce della vittima, anche questo è una novità nella cronaca nera, anche quello di andare a vedere le vittime se lasciano detto qualche cosa nella loro pagina personale. O se ci sono dei dati, delle fotografie che sono poi rimasti, e quindi diventa una sorta di salottino o anche di dimuretto dove si cercano delle informazioni e una sorta di specchio anche della società. Esatto, quello che è certo è che viene utilizzato dai giornali, insomma esattamente come dicevi tu Luca, è uno specchio o quantomeno una cartina attorno al sole, e anche un luogo dove si punta il dito. Una recente ricerca sugli adolescenti negli Stati Uniti ci dice che circa il 50% degli adolescenti sta su Facebook, che ci sono studi per ci sono luoghi dove disintossicare questi ragazzini dall'utilizzo di questo social network. Che è un po' quello che poi abbiamo visto con i videogiochi anche negli ultimi anni. Sì, World of Warcraft, stesso racconto. Allora, noi tra l'altro magari riusciamo a contattare nel corso della puntata uno di questi esperti che in questo momento è a colloquio con Maroni. Nel frattempo sentiamo Antonio Sofi, docente all'Università di Firenze e blogger che abbiamo in collegamento. Buongiorno Antonio. Buongiorno a voi. Abbiamo una scheda su di lei. Da tempo Antonio Sofi sperimenta forme diverse di comunicazione nei nuovi media. Nel 2007 ha ricevuto un premio per il miglior blog giornalistico in Italia. Sofi è docente alla Facoltà di Scienze Politiche di Firenze, ma l'interesse per internet va oltre la curiosità accademica. Ha partecipato alla fondazione di Metafora, una rete di pubblicità etica, e frequenta i seminari di Un Academy. Si tratta di un ateneo costruito nel mondo virtuale di Second Life, dove si discute l'impatto delle tecnologie nella società e nella cultura. Sofi ha vissuto da vicino le elezioni per la Casa Bianca nel 2000. Si trovava negli Stati Uniti per partecipare al conteggio dei voti durante il testa a testa tra George Bush e Al Gore. Ha messo a frutto la competenza nei media sociali con il blog Spin Doc, dedicato alla comunicazione politica su internet. Allora, Sofi, innanzitutto una sua impressione. Io le darò del lei e del tu, non si preoccupi, è normale. Allora, una sua impressione sull'utilizzo politico che viene fatto di Facebook. Ma è curioso come in realtà, visto che avete accennato all'ambiente un po' più ricco riguardo all'uso della comunicazione politica e di internet, ovvero l'America, è curioso come in realtà Facebook, soprattutto in politica, sia un fenomeno prettamente europeo. Meno di un mese fa c'è stata a Barcellona una delle prime conferenze su questo argomento in Europa, cioè sulla comunicazione politica e internet, e in realtà quando raccontavamo delle esperienze di Facebook nella politica europea gli americani ci guardavano con gli occhi un po' spalancati, perché in realtà era una specie di novità per loro. Ma questo perché negli Stati Uniti si utilizzano altri social media? Perché noi sappiamo tutti che insomma Obama, Luca, è, diciamo che parte della campagna, della raccolta fondi di Barack Obama è avvenuto grazie a internet. Sì, e appunto attraverso i social network ha iniziato a coinvolgere le persone. In particolare la sua campagna è stata dedicata soprattutto ai ragazzi tra i 18 e 29 anni. Quello che vorrei chiedere appunto a Sofia è, in effetti ha cambiato davvero qualcosa, oppure si tratta soprattutto, diciamo, di una sorta di pubblicità in un certo senso, oppure nel profondo, diciamo, ha cambiato il modo di fare le campagne elettorali negli Stati Uniti e forse poi anche in Europa? No, è vero che ovviamente il motore della campagna, soprattutto sui nuovi media, sono stati i cosiddetti millennials, sono quella generazione lì che internet la conosce in modo intenso e la usa in modo intenso, e quindi ovviamente tutti gli strumenti del web hanno aiutato. Eppure è vero che il nostro punto di vista, ovvero dall'esterno, rispetto alla campagna di Obama, ci fa un po' forse sopravvalutare l'impatto dei social network sull'efficacia anche online. Per esempio, viene fuori da un'analisi un po' più approfondita, sì è vero che i social network hanno avuto un impatto, però per esempio altri due strumenti che più o meno stanno dentro l'alveo dei nuovi media hanno avuto molto più importanza anche per gli stessi autori della campagna. Ne dico due: una sono le mailing list, quindi le mail mandate a più di 13 milioni di americani, quasi un miliardo di mail in varie diverse targettizzazioni. Perché le mailing list poi sono state più importanti? Perché attraverso le mailing list in effetti il candidato alla presidenza della Casa Bianca è rimasto in contatto poi con i suoi elettori? Sì, di fatto è la mail è ovviamente uno strumento molto più caldo, molto più intimo, e il modo in cui l'ha usato la campagna di Obama è stato per coinvolgere direttamente tutti quanti i volontari, insomma di fatto come una serie di staff allargato, tant'è vero che non era solo Obama a mandare le email, ma chi era iscritto alla sua mailing list era molto divertente, perché ti arrivavano le mail della moglie piuttosto che dello staff, piuttosto che del capo della campagna che ti raccontava la strategia, insomma ti tirava dentro la campagna come autore o come partecipante attivo. Quindi c'era un'idea, non era tanto il mezzo ma quanto l'idea di vicinanza che hanno saputo trasmettere. Tra l'altro, se non sbaglio, il responsabile della comunicazione di Obama ha 28 anni, cioè giovanissimo. No, lui era quello a cui ti riferisci, è l'autore dei testi, dei meravigliosi testi retorici, nel senso positivo, che tanto hanno fatto parlare. Diciamo che lo staff, però comunque, quello sui media era comunque uno staff molto giovane. Ecco, ma quindi perché lo stupore su Facebook? Cioè, ci hai appena spiegato che non è tanto il social network in sé come mezzo, ma è come è stato usato che ha diciamo contribuito al successo elettorale di Obama. Ma tornando invece a Facebook, quindi a bomba, l'argomento della puntata, cioè come mai gli americani danno una lettura diversa di quella che diamo in Europa di Facebook? Sicuramente non perché sono inferiori all'Europa, immagino. No, diciamo che ci sono secondo me due problemi di prospettiva. Il primo è che noi abbiamo vissuto in contemporanea due fenomeni. Uno, abbiamo visto da lontano, da qui, oltreoceano, Obama che usava in maniera innovativa e inedita i nuovi media, e dall'altro abbiamo vissuto un aumento spropositato negli ultimi due anni di Facebook in Italia, e quindi abbiamo, a mio parere, fatto una specie di piccolo errore di valutazione mettendo in connessione questi due fenomeni. Quindi c'è un problema nostro nell'aver sopravvalutato Facebook, perché ce l'avevamo davanti come fenomeno. In realtà appunto l'uso di Facebook nella campagna elettorale di Obama è stato marginale rispetto a tutta un'altra serie di strumenti. ecco, inoltre Obama è riuscito ad utilizzare anche i social network e i social media per coinvolgere le persone nel finanziamento poi della campagna elettorale. Come è stato possibile, o quantomeno quanto può incidere questo tipo di modalità poi di raccolta dei fondi anche poi in altri contesti? Ma questa è una parte molto interessante, ovviamente, è proprio grazie alla strategia di coinvolgimento, di forte calore partecipativo di tutti i mezzi attivati, ovviamente. Questo calore spesso, non ovviamente, ma insomma, bene per Obama, questo calore spesso si traduceva anche in un apporto economico, visto che l'usanza di donare finanziamenti alla campagna in America è in uso da tempo. La cosa interessante è che Obama anche in questo ha fatto dei piccolissimi cambiamenti che però sono stati vincenti, perché poi alla fine Obama ha raccolto tantissimi soldi su internet e molti di più dei suoi avversari, soprattutto per quanto riguarda gli small donors, cioè i piccoli donatori sotto i $100, se non sbaglio, sono considerati. Cioè, come ha fatto? Uno solo dettaglio: invece di dire siamo arrivati a $1 million donati, cioè quantificare i soldi, Obama diceva siamo arrivati a 1 milione di persone che ha donato, cioè si contavano le persone. Beh, è un cambiamento forte, cioè, nel è senso, piccolo ma importante. È importante. Ecco, ma a proposito di cambiamento piccolo ma importante, cioè, cosa ne pensi di quello che è oggi l'utilizzo di Facebook da parte della politica? Guarda, ultimamente devo dire che in Europa su questo siamo più avanti, rispondendo anche in parte alla domanda di prima. Perché appunto, avendo vissuto questa onda di Facebook, questo aumento di Facebook che non... Sì, tra l'altro ricordiamo, scusa un secondo, i numeri di Facebook. Sì, che in Italia appunto sono 12 milioni gli iscritti a Facebook, e poi vedremo anche che in effetti c'è stata proprio un'esplosione, sì. Come accennava anche Sofia prima, un'esplosione negli ultimi 2 anni e a partire da 700.000 persone, quindi nel giro di un'estate si è vista poi una curva, un'impennata delle iscrizioni che dura poi tutto. E 350 milioni nel mondo. Mondo, sì. Equivalente degli Stati Uniti, cioè tanto per dare un sì, è un'altra nazione in effetti che è cresciuta su internet. È un continente. Ecco, Sofì, al di là di questi numeri globali che poi dicono abbastanza poco volendo, perché poi sappiamo come i social network hanno questa caratteristica, si gonfiano e si sgonfiano molto velocemente, cioè l'abbiamo visto anche con MySpace, che era stato un fenomeno, poi di colpo c'è stato è successo qualche cosa, cioè le persone sono spostate altrove. Ma sul piano della comunicazione politica, cioè abbiamo visto tutti i principali leader che hanno aperto la loro paginetta su Facebook, c'è stata la conta degli amici, c'è stata la conta a ogni grande avvenimento politico, si va a vedere i gruppi che nascono pro e contro. Diventa anche un modo poi appunto di essere vicino alle persone in uno spazio delle persone. Sì, no, però è curioso, nel senso che, cioè, succede qualcosa di Pietro, ecco che si va a vedere il numero di gruppi che sono nati a favore o contro quel dato avvenimento. Cioè, la scienza della politica, cioè in università vengono studiate queste cose come le bizzarrie del momento o come un nuovo strumento per fare politica? Ma io personalmente penso che sia molto più bizzarria del momento, ma perché? Perché appunto, come dicevate giustamente voi, in questo momento è evidente come siano giudicate, valutate, usate come una sorta di metrica impropria, no? Del consenso, del successo di un'iniziativa politica, della popolarità di un candidato, di un politico stesso. In questo senso non può che essere una bizzarria, nel senso che non ha un futuro questo tipo di lettura, no? Degli eventi anche in un soggetto come Facebook. La cosa interessante è che per molti politici, per molti candidati anche nelle ultime elezioni, Facebook è stato di fatto la porta d'ingresso nel web 2.0, nel web evoluto, insomma nel web delle persone, e in questo rispetto ad altri luoghi in cui diciamo i social network erano pane quotidiano della politica, i fenomeni più curiosi, anche più innovativi in un certo senso sono venuti proprio in Europa. In Italia appunto con questa crescita ci sono stati molti politici che catapultati dentro questo nuovo ricco universo di persone e di opportunità, qualche uso lo ha fatto. Quindi è servito un attimo anche per l'alfabetizzazione informatica in effetti delle persone, cioè per farle entrare magari della classe politica no, perché tra l'altro io mi ricordo chiaramente io lo dico da giornalista, cioè quando Di Pietro ha aperto l'isola su Second Life, tutti a scrivere chiaramente il pezzo di una nuova moda, poi credo che sia stato l'unico ad aprire un'isola su Second Life. Facebook è un po' diverso da Second Life, se non mi sbaglio. Sì, no, certamente, ma soprattutto perché alla fine io penso che Facebook sia tra i social network uno strumento forse naturalmente, intrinsecamente politico, perché ecco perché è stato capito bene, usato anche a livello locale, microlocale dai politici, perché di fatto si sta parlando di quello, cioè di una lista di persone che più o meno ti segue e che tu devi convincere a fare qualcosa rispetto a un'altra. Cioè, quindi il micro universo di Facebook è di fatto un universo politico. Ecco, e quando parliamo poi di un universo microlocale, poi ci riferiamo quindi a paesi, a piccole comunità dove appunto i politici poi vogliono continuare ad avere un contatto, ecco, con le persone, con la loro base elettorale. Ma io ho seguito nelle ultime elezioni un caso curiosissimo che ho presentato appunto anche a Barcellona, nello stupore generale, è di un paesini di 2.000-3.000 abitanti, in cui nelle elezioni amministrative, qui con 2-3 liste civiche, ogni lista civica aveva la sua il suo forum su Facebook, ogni candidato aveva la sua pagina su Facebook, c'erano dei forum indipendenti o dei gruppi indipendenti, le fanpage indipendenti in cui si discuteva di politica, e stiamo parlando di paesini di 2.000-3.000 abitanti. Vabbè, lì è super interessante. Il numero verde, non mi sono scordato di darlo, 824 0024, 349 238 6666, gli sms. Io vorrei chiedere a Sofi di restare lì e vorrei provare ad alzare la palla e a passarla a Vincenzo Cosenza, direttore della sede romana di Digital PR, anche perché lui sta studiando un modo per dare una rappresentazione diciamo più compiuta dei social network. Ora sentiamo la scheda sempre di Luca Dello Iacovo. Un anno fa è esploso il fenomeno Facebook. Gli italiani iscritti al social network sono passati da 700.000 a 12 milioni. Facebook si è allargato all'improvviso, diventando una megalopoli. Vincenzo Cosenza è stato tra i primi ad analizzare la rapida crescita di Facebook in Italia. Alcuni mesi dopo ha pubblicato una mappa globale dei social network. È una cartina che mostra le reti sociali più frequentate in ogni nazione, dall'Arabia Saudita al Kenya. La sua mappa è stata un successo sul web, segnalata anche dal Washington Post. Vincenzo Cosenza si è laureato in economia e commercio. Dopo un master alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è entrato nelle relazioni esterne di Microsoft Italia. Adesso è direttore della sede romana di Digital PR. Tra l'altro c'è Luisa che ci scrive: volete dirlo che la maggior parte delle persone su Facebook gioca? Lo diremo nella seconda parte, perché ci sarà tutta una sezione dedicata a Farmville, chi conosce insomma questo gioco, tra l'altro divertente. Poi approfondiremo la vita agreste che tra l'altro sono 73 milioni quelli su Farmville, esatto, sì. Comunque, Cosenza, salve, buonasera. Stiamo un po' sottovalutando, o quantomeno stiamo sopravvalutando Facebook, come diceva in un certo senso Sofi, o l'abbiamo forse capito meglio degli americani? Ma soprattutto, cioè, Facebook cosa rappresenta all'interno della mappa? Allora, direi che l'abbiamo sicuramente sottovalutato un po' di tempo fa. Io ho iniziato a studiarlo ormai 3 anni fa, Adesso forse lo stiamo sopravvalutando, meglio, i mass media tendono appunto a sopravvalutarlo, quindi per ogni problema o situazione particolare di cronaca tendono a interrogare Facebook come una sorta di sibilla cumana, ecco, questo è sicuramente un eccesso. Ecco, in Italia c'è qualche caratteristica particolare magari di Facebook che in altre nazioni non si trova nell'utilizzo oppure in qualche tendenza che magari è meno accentuata, ecco, nelle nazioni circostanti? Beh, sicuramente dal punto di vista della popolazione che lo frequenta, nel senso che mentre nella maggior parte dei paesi del mondo sono più le donne a frequentare Facebook degli uomini, in Italia in realtà abbiamo un 55% di uomini che lo utilizza e un 45% qualcosa di donne. Questa è una caratteristica italiana che francamente ancora in questo momento non mi so spiegare. Le donne sono più degli uomini fino all'età di 18 anni, dopodiché gli uomini prendono, diciamo, il sopravvento. Perché maturano prima? Probabilmente. Questa è l'unica cosa. Esatto. Per il resto non ci sono grandi particolarità nella popolazione, che è molto, diciamo, come dire, comprende tutte le fasce, le corti d'età. Ecco, nel resto del mondo invece, come emerge dalla mappa, in effetti abbiamo visto che Facebook ha conquistato, diciamo, 100 nazioni su 127, sì, sulle... quindi è una sorta di risico dove ha conquistato quasi tutto, o no? Sì, ormai sì, è il fenomeno del momento. Io ho creato questa mappa lo scorso giugno, certamente Facebook la faceva da padrone soprattutto in Europa, l'ho aggiornata ora e i grandi cambiamenti che si sono avuti e soprattutto la conquista da parte di Facebook dell'India, che in realtà era il paese in cui sopravviveva un social network locale, tutto da Google. No, in realtà non locale, ma pensato per alcune geografie e poi acquisito da Google, che si chiama Orkut, che per ora invece sopravvive soltanto in altre geografie del mondo, poche altre, tra queste il Portogallo, per esempio. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada al microfono, 16:31. Stiamo parlando di Facebook, tanto per un argomento, no? Di cui non si parla mai adesso, esatto, in Italia. E stavamo appunto consultando adesso, in questo momento online, la mappa dei social network, che oggettivamente assomiglia a un risico. Tra l'altro, l'indirizzo di questa mappa è www.vincos.it. Però, insomma, l'indirizzo, quello fatto bene, quello giusto, e così lo metteremo sul nostro Twitter di Nova Lab. Lo trovate anche, diciamo, sia su Facebook che poi su Twitter. Sì, insomma, lo mettiamo ovunque. Ecco, Cosenza, che è l'uomo che ha costruito questa mappa, la cosa che volevamo capire è se abbiamo visto l'importanza in un paese, in Italia sicuramente dal punto di vista dei giornali Facebook sta diventando importantissimo, ma ci sono altri luoghi che in un certo qual senso stanno adottando Facebook come cartina tornasola o come strumento di propaganda o strumento di verifica politica, come abbiamo visto? Beh, questo è davvero difficile dirlo, sarebbe interessante in realtà analizzare quello che succede in Turchia, che è il terzo paese per numero di adottanti e di utenti Facebook dopo Stati Uniti e UK, però francamente non ho dati sull'utilizzo dei media in questi paesi di Facebook, insomma. Ecco, ma corriamo il rischio magari che Facebook poi conquisti tutto, in effetti continui a espandersi, cioè non si arresti mai, che poi diventi una sorta di monocultura, in effetti, del social network. Il rischio c'è, io dal mio punto di vista i consumatori, gli utenti, quindi riescono bene a capire quando è il momento di voltare le spalle a un determinato social network, insomma la storia ce lo dice, anche le rivolte contro particolari nuove normative o interfacce diverse di Facebook ce lo dimostrano. Finché quindi, insomma, non arriverà un altro social network che intercetterà meglio di Facebook le esigenze del consumatore, per esempio in ambito privacy potrebbe accadere, Facebook insomma la farà da padrone, proprio perché ha intercettato meglio di altri alcune esigenze anche di semplicità dell'utilizzo del mezzo e della possibilità di entrare e rimanere in contatto con i propri amici, conoscenti. Ecco, tra l'altro, proprio sul tema di mantenersi in contatto, alcuni ascoltatori insomma ci fanno notare che i numeri sono gonfiati, perché insomma molte persone si iscrivono 3-5 volte. Aggiungo io che molte persone, una volta iscritti, poi non frequentano il social network, per cui sono delle lapidi nella rete. Altri addirittura mettono nomi di fantasia. Abbiamo parlato anche sulle pagine di Nova 24 di vari fake, di finti personaggi o di esche per commerciali. Però quel dato vero è che, al di là del numero reale, cioè al di là della rappresentatività della società e del dato numerico, insomma, su Facebook c'è stato un film che è andato al cinema, non l'avrà visto nessuno, però insomma nelle videoteche si trova. È un argomento poi appunto di discussione. Non è successo per altre tecnologie, non è successo per altri spazi, esatto, di internet. È per talmente Facebook, un sì, argomento di discussione, noi non abbiamo voluto parlare proprio per questo. Ma poi ci sono stati i libri su come trovare la fidanzata con Facebook, ci sono psicologi, scienziati che si sono esercitati e misurati nella pratica nel distinguere tra la fidanzata dell'elementare rispetto a quella delle medie, rispetto a quella del liceo. Insomma, c'è la mitologia del compagno di banco anche, che esatto, ritrovi su Facebook. Esatto. Insomma, non si è capito come, però questo social network di fatto ha fatto quello che gli altri non hanno saputo fare. Sì, in realtà è quello che dicevo, è riuscito offrendo un ambiente, quindi un'interfaccia facile da utilizzare, comunque appunto che non richiedesse una sorta di periodo di apprendimento lungo da parte degli utenti, di permettere appunto all'utente anche meno esperto, che ha il panico davanti alla ricerca alla pagina di ricerca di Facebook, dopo la prima ricerca non sa più dove andare, ecco, in Facebook ritrova un po' tutti quegli elementi che gli possono essere utili per comunicare con i propri amici, per giocare, per scherzare, per divertirsi o anche informarsi all'interno di un unico mondo facilmente accessibile. Questo è chiaro che è un vantaggio per l'utente meno esperto, è chiaro che pone anche dei problemi e dei rischi anche nel concetto di percezione di internet, quindi della ampiezza del luogo in cui ci si trova, quindi con il rischio di scambiare Facebook per internet, o problemi indubbiamente di privacy. Ecco, però anche il fatto che alla guida di Facebook c'è un ragazzo, in effetti, che è Mark Zuckerberg, può aver influito anche sul fascino, diciamo, di questo social network rispetto poi ad altri spazi che sono meno personalizzati e forse anche meno giovanili? Potrebbe, ma non tenderei a dare a questo elemento, sì, una valenza forte, nel senso che poi l'utente sceglie in base alla... Anche perché magari l'utente capacità, non sa neanche chi è, sì, che ha fondato Facebook. Però magari, ecco, anche la scelta poi di utilizzare poca pubblicità su Facebook può essere, sì, legata quello anche al fatto che c'è... Ma io tra l'altro volevo chiedere ad Antonio Sofi, se è ancora in collegamento con noi, sì, se qualcuno ha mai pensato anche nel momento in cui un luogo digitale o fisico diventa così importante per i giornali, è inevitabile che qualcuno provi anche a manipolarlo. Di fatto, quando nascono 48 gruppi in un microsecondo contro a favore di quel politico, contro a favore di quel fatto, io sento sempre un po' puzza di bruciato. C'è questa possibilità? Ma possibilità, diciamo, teorica c'è, peraltro recentemente è successo proprio qualcosa del genere con dei gruppi che precedentemente erano generici gruppi, uno di aste online, un altro per esempio, se non sbaglio, proprio contro la chiusura di Facebook a pagamento, la ventilata chiusura di Facebook a pagamento, e poi sono diventati dei gruppi pro il Presidente del Consiglio, contro. Quindi è stato fatto un tentativo di manipolare queste queste dinamiche di aggregazione intorno a delle cause che poi sono i gruppi per fini politici. Penso però che queste cose, come spesso in internet, abbiano davvero la vita molto breve e vengano facilmente sbugiardati e soprattutto non abbiano praticamente nessun tipo di impatto finché, anzi nel momento in cui smette questa attenzione eccessiva e distorta da parte dei media tradizionali, insomma. Sì, tra l'altro un altro tema enorme che lamentano gli insegnanti è proprio la costruzione da parte delle giovani generazioni di camerette private, cioè di micro circuiti dove la mamma cerca di entrare dentro la pagina personale del figlio per capire cosa frulla nella testa, cosa che chiaramente non è possibile, però è diventato un tema. C'è questa sorta di delega in un certo senso, di ricercare poi un contatto anche in spazi che sono poi privati e che dovrebbero essere privati, sembrano poi tra l'altro privati. Si lamenta anche, no, ma perché mio figlio, ho sentito discorsi di mamma, perché mio figlio deve tenere aperta una cosa su Facebook che io non posso vedere, come se fosse la camera dove vive il bambino, cioè, ecco. Però insomma, il tema dell'infanzia è stato tirato su non a caso, perché volevamo guardare anche il lato videoludico, insomma, di Facebook, e per farlo abbiamo in collegamento Giovanni Bocciartieri, docente di sociologia dei new media all'Università di Urbino. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Abbiamo anche per lei una scheda. Società, internet, cultura pop. Sono mondi che si mescolano nell'universo digitale. È uno spazio in continua crescita. Attraverso social network e blog, le persone condividono emozioni e riflessioni. Si tratta di Media Mondo. Sono flussi di saperi, ricordi e sensazioni che plasmano la nostra esistenza. E Media Mondo è il titolo del blog di Giovanni Bocciartieri, docente di sociologia dei new media all'Università di Urbino. Bocciartieri estende la sua ricerca a ogni ambito dell'universo digitale, dai mondi virtuali come Second Life ai videogiochi. Sono dimensioni che su internet convergono in una stessa piattaforma, contaminandosi a vicenda. Allora, non so se lei è d'accordo, ma io parlerei di Farmville. Sì, va bene. Se ve la sentite, volentieri. Ce la sentiamo, no, almeno io personalmente me la sento già Luca Dello Jacopo un po' meno, perché lui ha aperto un campetto sterile e orrendo. Comunque, spieghiamo che cos'è Farmville. Farmville è uno dei tanti videogiochi che sono presenti su Facebook. A 73 milioni di persone che giocano in tutto il mondo. A 73 milioni di persone, insomma, l'obiettivo, se non sbaglio, lo so benissimo, però faccio finta un po', è quello di costruire una fattoria, no? Sì, l'idea è quella di costruirsi una fattoria e soprattutto di giocare con tutti gli elementi che vengono continuamente introdotti per sviluppare, come dire, competenze sempre maggiori di gioco a seconda appunto dei soldi che hai a disposizione e anche dei livelli che raggiungi, questo apparentemente almeno, perché dietro poi ci sono due idee: da una parte quella di costruire legami sociali con altre persone che giocano a Farmville e che ti possono dare elementi che tu non hai o fare delle cose come fertilizzare il tuo campo e quindi rendere più rigoglioso prima la crescita. Ecco, del grano, spieghiamo due cose, cioè 73 milioni di persone, una o più volte al giorno, che cosa fanno? Si alzano, controllano il loro campo, lo zappano con il mouse, cioè schiacciando un bottoncino, decidono cosa seminare, fanno il raccolto e guadagnano soldi. Con quei soldi possono abbellire la loro fattoria. E fin qua questo è la descrizione di un normale videogioco. Il lato social network, diciamo, è il fatto che io posso scegliere di avere come vicino di fattoria Luca Dello Jacopo e decido di andare a far visita al suo campo, appunto fertilizzare il suo campetto, regalargli i famosi regalini, regalargli i doni gratuiti, una carota piuttosto che un soldatino, piuttosto che un pupazzo di neve in questo periodo, e questo scambio gratis. Io poi li dovrei restituire questi doni? No, puoi anche non restituirlo, no? Ecco, e questo scambio insomma è la parte tra virgolette malata del gioco. Sì, beh, che però, come dire, è la parte che più sviluppa quelle che sono le logiche dell'economia del dono, che sono un po' quelle che reggono la rete e questi particolari tipi di legami. Cioè, ricordiamoci che degli elementi banali, anche stupidi come Farmville, come tanti altri giochini in rete, di fatto nascondono dietro la forma dell'intrattenimento una forma della relazione sociale che è una relazione, potremmo chiamarla pura, cioè senza contenuto, cioè non importa che ci sia un vero e proprio contenuto dietro, è la relazione per la relazione. Allora il fatto di scambiarsi i doni anche stupidi sta a, come dire, ci sono, ti seguo, sono in contatto con te, ed è quello che di fatto poi fa la forza dei legami possibili che ci sono dentro la rete e dentro cose come Facebook. Ecco, una battuta, abbiamo solo 30 secondi, poi però continuiamo nella terza parte. C'è anche un'azienda dietro, naturalmente. Ovviamente, bisogna ricordarsi che, come dire, tutti i giochi rendono di fatto disponibili innanzitutto i nostri profili alle aziende e questo, come dire, rende possibile anche sviluppare alcune dinamiche di stampo pubblicitario. E dall'altra parte qui c'è la possibilità non solamente di guadagnare soldi giocando, ma addirittura di investire dei propri soldi reali, esatto, per avere un potere d'acquisto. Ecco, Attieri, su questo tema ci torniamo subito dopo. Nova Lab 24. Bentornati, 16:46, stiamo parlando di Farmville, di Facebook, con Giovanni Boccia Artieri, docente di sociologia a Urbino. Ecco, stavamo introducendo il vero tema di questi giochi, il fatto che insomma dietro c'è un'azienda, il fatto che in un certo senso conosce i nostri gusti, conosce i nostri dati, ma questo solo per il fatto di stare su Facebook, ma soprattutto che insomma se vogliamo abbellire, come nel caso di Farmville, la nostra fattoria, c'è l'opportunità di sfoderare la carta di credito e acquistare, che sto, il babbo Natale, il pupazzo di neve più bello di tutti, ce ne sono 5 in tutto il mondo, se si pagano soldi veri si può avere questo oggetto virtuale, oppure il cottage, oppure il campo fatto in un certo modo, c'è anche la casa ecologica, no? Per cui uno si compra la casa ecologica, però insomma per averla non gli basta giocare e passare tempo e minuti sul gioco, ma deve spendere dei soldi veri. Sì, la cosa interessante è che appunto per mostrare la tua capacità lì all'interno ed essere, come dire, più bello degli altri, la maggior parte delle cose che puoi acquistare puoi acquistare solamente avendo parecchi soldi gioco, e quindi è possibile farlo solamente se acquisti con la tua carta di credito, come stavi dicendo, alcuni appunto i soldi della fattoria, tanto più che viene stimolato continuamente, perché uno dei punti di forza di giochi come questi è la perfetta sincronizzazione fra il tempo di gioco e il tempo della vita reale. Ad esempio a Natale trovi tutta una serie di oggetti che trovi solamente nel periodo di Natale, prima veniva ricordato il Babbo Natale, ma anche la neve, le luci, le luminarie per abbellire la tua fattoria e cose di questo genere, così come ad Halloween trovavi solamente, come dire, nel periodo di Halloween una serie di elementi, e quindi la tua abilità e la tua competenza rispetto anche a chi ti viene a visitare sta nell'abbellire, nell'addobbare, nel trasformare continuamente la tua fattoria in maniera significativa. Ecco, sono degli status symbol stagionali in effetti anche. Sì, assolutamente, sono status symbol stagionali anche legati, come dire, alla singola persona, perché in qualche maniera, come dire, ricordiamoci che la maggior parte del tempo viene utilizzato non solamente per giocare, fra virgolette, all'interno della propria fattoria, ma per andare a vedere la fattoria dei propri vicini o di persone che ti mandano doni e vorrebbero diventare potenzialmente tuoi vicini, eccetera, eccetera, fino a sviluppare delle forme di messaggio, come dire, potremmo dire, interstiziale, cioè ci sono persone che modificano il proprio terreno piantando ad esempio gli alberi fino a comporre delle parole che lette dall'alto hanno dei particolari significati. In questo periodo, come dire, vediamo moltissime persone che hanno scritto Christmas, quindi Xmas, ad esempio con particolari lotti di terreno oppure con gli alberi piantati in un particolare modo. Per cui dici è un attimo cominciare a lanciare messaggi politici. Oppure interveni, no, perché può anche essere questo, eh. Questa è una cosa che, come dire, potenzialmente capita. Per la mia esperienza personale, diciamo che molto spesso ci sono messaggi che vengono lasciati per persone particolari, anche se scritti così in pubblico, oppure che riguardano, è un po', funzionano un po' anche spesso come gli status update di Facebook. Cioè, ma anche come la scritta per le strade, cioè in certi quartieri c'è sempre quello che gli scrive ti amo con lo spray sotto lo zerbino di casa o su davanti al muro. Insomma, sì, diventa un muretto digitale anche sì, nel caso di Facebook. No, ma tra l'altro la cosa che a me spaventa, perché poi ne sono vittima anch'io, è il tornaconto delle operazioni sociali. Cioè io adesso mando anzi ho mandato per esempio una settimana fa a Luca Dello Iacovo un regalino aspettando che chiaramente lui facesse altrettanto, e Dello Iacovo si è guardato bene perché sono matura tra l'altro e seria dal rispondermi, per ma cui diciamo, si creano delle aspettative strane anche. Artieri. Sì, assolutamente sì, ma anche perché appunto prima dicevamo dietro che cosa c'è? C'è un po' la dimensione che insomma già Malinowski, insomma, tanto per utilizzare un po' come dire anche la cultura universitaria, da antropologo aveva individuato nell'economia del dono, cioè il fatto che il dono richiede spesso, anzi sempre, una reciprocità se vuole costruire dei legami sociali, per cui in realtà io non faccio un dono veramente disinteressato, lo faccio aspettandomi un dono indietro, oppure lo faccio per farmi notare in maniera appunto che qualcuno mi metta come vicino e che quindi in qualche maniera posso costruire maggiormente le mie relazioni per poi fare più soldi lì all'interno, costruire meglio la mia fattoria, eccetera eccetera eccetera. Ma ci si disintossica da tutto ciò? Ma ci si disintossica, io ho visto diversi modi di disintossicarsi, cioè persone che hanno, come dire, cancellato completamente la propria fattoria, lasciando magari un messaggio del tipo me ne vado, lasciando il campo, altri che invece l'hanno fatto, hanno lasciato la, come dire, che i campi diventassero un gesto forte, insomma. Sì, sono, come dire, atteggiamenti, come dire, molto molto forti, proprio perché gli altri si aspettano delle cose da noi. E un gesto ugualmente forte è quello che sto compiendo adesso, perché ci stanno sfumando. La trasmissione è finita, grazie a Giovanni Bocciartieri, grazie a Vincenzo Cosenza, grazie anche a Sofi e grazie a Luca Dello Iacovo. Noi ci sentiamo domani alle 16. Nova Lab 24.